ma tutte le macchinette erano rotte. Ma il problema è stato che il mio abbonamento, nonostante fosse ancora valido fino al 23 aprile, non mi ha aperto i tornelli. E quindi che è successo? Dici un po'. Non mi ha aperto i tornelli e mi sono i tornelli e non sono dovuta passare. Sono dovuta passare sotto i tornelli, mi sono incastrata nelle catenelle e mi è venuta una botta d'ansia perché mi sono spaventata, ma per fortuna mi sono salvata. Una cosa del genere non può mai, non deve mai, non deve succedere mai. Se abbiamo bisogno, possiamo chiedere aiuto ai signori della sicurezza, ATAC. Quando sono uscita da scuola, per fortuna le macchinette a Santa Maria funzionavano. Bomba, e siccome questa di Alice è proprio il suo tema principale, la mobilità di Roma, diciamo che fortunatamente l'ATAC è intervenuta in maniera tempestiva. Alice ha segnalato quello che può essere un problema che riguarda un po' tutti, soprattutto per migliorare quello che è un servizio pubblico. Ma ora diamo la parola alla musica con un pezzo scelto da Alice. Ti aspetterò a cena da sola, in mezzo al fumo di mille parole, di canzoni che non hanno età. Sulla pelle il tuo sapore non si muove, siamo bravi a continuare a farci male. Io che non cercavo un ragazzo di strada, poi mi è distratta, vendendomi un'altra bugia. Quando la notte arriva, sempre qui dal Brancaleone, questo è sempre Jolly Roger. Siamo a venerdì 18 febbraio e sono le 5 e un quarto. È stato San Valentino, abbiamo festeggiato chi più chi meno alla maniera propria. E Jolly Roger dedica un pezzo a tutti gli innamorati. E poi proseguiamo con la nostra solita rubrica di calcio. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

c'è l'imma Mergelli, non ne parla mai più, e cinque la mattina, it's me and you. La rosa cinta spina, se mi sa senza te, la battere in tuo cuore, tu te scordate di me. E gira Mergelli, te porta dove tu, un mezzo pacchettina, it's me and you. La rosa cinta spina, si stonga senza te, la pioggia in tuo cuore, tu te scordate di me. Il braccio trova sempre il letto vuoto, non ha senso che lo metta a posto. T'ho sognata che stavamo insieme, c'ho sei cuscini ma dormo da solo. Provo a stancarmi, vado in palestra e poi nuoto, con la mente che affonda. So che ti sei fatta bionda, sei bella come agosto, un albero che fa ombra, come farsi travolgere da un'onda. No, neanche stasera tornerò presto, troverò un locale dove troverò da bere, dove annegare ogni complesso. Ti scrivo un messaggio, ma poi lo cancello. Sono passato sotto casa tua, ho pensato dovessi saperlo, no. No, non sto bene, no, non sto bene. Sapere dove sei, no, non conviene. Ti pensa tramonto tra luce e sirene. Spazzami queste catene, ci toccano ancora nelle foto insieme. Non sanno che tu riesci a dare. Scelto da Matteo in combo con Liberato e Jamie Tights. E ora facciamo un attimino un po' di approfondimenti e Matteo parlerà di alcune cosette riguardano sempre il calcio. Iniziamo con la classifica marcatori. Classifica marcatori 1 Immobile con 9 gol Lazio, Vagic gol di Tottenham con la Juve, poi Tirone con il Tronti di con Verona, Adamo con Undi con Roma, Mandiret con Unci con Inter. E ora facciamo un sunto anche di quella che è la classifica di Serie A. Cattivi prime 3 quadre 1 Milan con 5 punti, l'Inter con 54 punti, Napoli con 53 punti, la Juve con

mentre invece il ritorno ambrosiano 3 marzo giovedì grasso, 4 marzo venerdì, 5 venerdì marzo, sabato marzo. Sabato pazzo anche. Sta arrivando al carnevale nel supermercato Conad. Sta arrivando il carnevale. Allora, intanto queste erano le info che ha dato Luca sul carnevale e ora proseguiamo con quella che è anche la sua rubrica che lo riguarda, perché lui è un grande esperto di spesa. Quindi passiamo il mic a Luca che prosegue il suo intervento. Ah, ok. Sta arrivando il carnevale. Da cosa vuoi travestirsi quest'anno? Castagnole al forno, 10,90 euro al chilo. Ravioli ripieni con ricotta e cioccolato a 13,90 euro al chilo. Brighe al forno ripiene con crema o cioccolato, 12,90 euro al chilo. Perfetto, e questi, essendo carnevale, sono i dolci che ha scelto Luca per noi. E ora mandiamo un pezzo e poi ritorniamo con un must, che sono le sue battute. Swimming in your world, something spirit. chitarra. E torniamo in diretta. Ora passiamo il mic a quella che è la consueta rubrica di Luca. Ho dovuto lavare il caffè. Perché? Era macchiato. Ho finito le battute che avevo in serbo ora. Comincio con quelle in croato. Cosa serve a un maiale che va all'estero? Il passaporco. Se lavorare fa bene, perché non lasciamo fare per i malati? Come dicono le galline se baciano domani? Due casseforti si incontrano per strada. Che combinazione. Perfetto, questa era la rubrica di Luca, le sue battute. Ora passiamo a un pezzo che avevamo scelto proprio per l'arrivo di Lucone, e che salutiamo e saluta tutti quanti. Iniziamo con il pezzo scelto da lui. Belli carichi a pallettoni. We'll be right back.

meglio nuovi friends. E noi torniamo in diretta per ricordare l'ultimo appuntamento, soprattutto forse l'appuntamento più importante della settimana per il Brancaleone. Martedì 22 febbraio, Bandiere Rosse al Vento, 1980-2022, Valerio vive la rivolta continua. Appoggiamo il corteo, sosteniamo il corteo che si terrà martedì 22, partenza alle 17, che proseguirà con una serata qui al Brancaleone, una serata che vedrà la partecipazione di Zulù, Attrici Contro, e noi in session qui dalla Bolla, dove stiamo andando direttamente in diretta. Quindi questo è l'ultimo pezzo col quale salutiamo tutti quanti, ci si aggiorna a settimana prossima. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Buonasera a tutti e a tutte. Questo è l'ultimo pezzo per noi. A sud, corra gomba, a nord, corra gomba, tan-tan, cama scappa, cammina, notta parma, purumba, che vai veloce, mena, notta mazza cap, purumba, e via da città, caccia la chiesa da, purumba, canta papà, la bigna libertà, corba, corba, corba, corba, corba, corba, azzi cala, fatta cannibale, passaggio libero, carriva annibale, soffurmigale, schiacciala, cidala, pinzala, calciala, scaffala, libata, più si vecchio non privana, non cazzo mi ridana, sciocco una monopole, tu poi è maledibata, e non ha la bomba, con business alla tomba, sarà chiscena, ido giustizia canta, ora ne fanno tanto. Corre, corre, vaio, corre, corre, vaio, io, io, io, corre, corre, vaio, corre, corre, vaio, io, io, io. Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo. Attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte stifetente. Sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99. Corre, corre, vaglio. Corre, corre, vaglio, io, io, io. Corre, corre, vaglio. Yo, yo, yo, yo, corre, corre, vai, yo. Corre, corre, vai, yo, yo, yo, yo. Corre, corre, vai, yo. Corre, corre, vai, yo, yo, yo. Popolare non è buono perché, perché contro culturale, magari perché rombo cazzo troppa gente, sì, ma allora perché ma vuol rompere cazzo e no pure a te, ma sento sta nervatura un saccio buono perché, perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavole, figurami se senti che tiene a riscere a me, stronzate 40 anni potere perché, a gente te ne fa messa fa. che non mi vecchio ma la ciambara da care. Corre, corre, guaglio. Corre, corre, guaglio, io, io, io. Corre, corre, guaglio. Corre, corre, guaglio, io.